Europa 24. E un saluto da Anna May e Migliorati, vigilia del vertice dei leader europei che oltre ad affrontare il tema della Brexit si dedicherà domani ancora anche alla crisi dei migranti. L'ultima bozza delle conclusioni disponibile richiama ad un'ulteriore azione concertata e alla necessità di porre fine a quelle che vengono definite ondate fuori controllo, ma si indica anche l'importanza di restare vigili sui possibili sviluppi che riguardano altre rotte da poter intraprendere e per preparare azioni rapide. Il riferimento, spiegano fonti europee, è all'Italia, ma anche alla Finlandia, dove i migranti arrivano passando dalla Russia. Ad oggi la Croazia invece continua ad essere il principale punto di ingresso per i migranti irregolari sulla rotta balcanica, dopo la barriera installata a metà settembre dall'Ungheria con la Serbia. E allora da qui la decisione di Vienna di mettere le mani avanti e costruire una barriera verso l'Italia, ma Bruxelles non ci sta. Siamo felici per aver registrato dei progressi, dei passi avanti sulle nostre proposte circa l'emergenza profughi avanzate la scorsa settimana, così il portavoce della Commissione europea alla vigilia del tanto atteso Consiglio europeo. La storia ha dato ragione a Kohl e darà ragione anche ad Angela Merkel e a me, ha dichiarato il presidente della Commissione Juncker alla Bild, sottolineando il fatto che ci sono stati già i primi progressi. Ci vorrà del tempo, ha detto Juncker, ma in Grecia, già adesso, a 9 richiedenti asilo su 10 vengono prese le impronte digitali. A settembre erano l'8%. E tuttavia, proprio oggi, in Grecia, il corpo di un bambino di 4 anni è stato ritrovato a bordo di un gommone con migranti arrivato sull'isola di Chios, nel mare Egeo. Era afghano ed è morto durante la traversata con la sua famiglia. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sul fronte economico all'Europarlamento questa mattina le parole del presidente dell'Eurogruppo e dell'Ecofin Dijsselbloem, parole che arrivano dopo quelle lunedì di Mario Draghi. Non possiamo cullarci sugli allori, le recenti turbolenze sui mercati, le parole di Dijsselbloem dimostrano che dobbiamo applicare in maniera determinata le regole dell'Unione bancaria e spezzare il circolo vizioso tra il sistema bancario e il debito sovrano. L'unione bancaria significa, lo sentite, ridurre i rischi e porre condizioni eque per tutti gli istituti, ma anche evitare che i contribuenti debbano farsi carico del salvataggio delle banche. Le prossime raccomandazioni sulle riforme paese per paese verranno presentate dalla Commissione europea a maggio. Più trasparenza nella vendita dei prodotti alimentari, si rinnova intanto in Europa la battaglia sul Made in Italy e l'Italia trova alleati. L'etichettatura d'origine come strumento per combattere la contraffazione dei prodotti made in Italy e per eliminare distorsioni nella filiera che stanno mettendo in ginocchio molti agricoltori. Trasparenza sull'origine dei prodotti, dunque ciò che chiede l'Italia all'Europa. Richiesta ribadita oggi alla presentazione del quarto rapporto agromafie realizzato da Coldiretti, Eurispes e Osservatorio sui crimini agroalimentari. La falsificazione e l'imitazione di prodotti made in Italy supera un fatturato di 60 miliardi di euro con quasi due prodotti apparentemente italiani su tre in vendita sul mercato internazionale. Dai salumi alle conserve, dai formaggi ai vini, il falso non risparmia nessun settore. Per questo la Coldiretti torna a chiedere l'indicazione dell'origine delle materie prime in etichetta, tema di cui si è discusso anche nell'ultimo Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura dell'Unione e di cui si tornerà a parlare nel Consiglio di marzo. Il presidente di Coldiretti, Roberto Moncalvo. All'Europa chiediamo veramente un atteggiamento coraggioso di attenzione ai consumatori e alla domanda di trasparenza nella filiera che non viene più solo dagli agricoltori di Coldiretti, paesi europei importanti come la Francia che chiedono ad esempio come noi l'origine in etichetta in tutto il cibo che acquistano i nostri consumatori. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ancora un saluto da Anna Migliorati, ci fermiamo qui, l'Europa come sempre vi aspetta questa sera, effetto notte. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.